Il suono della musica di Gigi Telesco. Siete collegati con l'Alexanderplatz di Roma, dove ci troviamo oggi per il nostro soundcheck qui sempre su Radio 24 per incontrare quello che considero ormai da tempo il miglior bassista elettrico vivente e italiano. Arriva da una città che si chiama Salerno, che per me è un po' come la New Orleans italiana, e spiegheremo anche perché. Vi sto parlando del maestro Dario De Ida. Buon pomeriggio Dario, benvenuto al soundcheck di Radio 24. Buon pomeriggio a tutti voi, grazie. Allora, oggi parliamo del tuo strumento, parliamo del basso elettrico, parliamo di musica. Tu ormai da diverso tempo dividi la tua attività fra i concerti, registrazioni discografiche a destra e sinistra, ma sei molto impegnato con la didattica. Dove stai insegnando e che cosa insegni ai tuoi allievi? Musica, contrabbasso, basso elettrico? Io sto insegnando sì al Conservatorio di Salerno, il conservatorio della mia città, dove mi sono anche diplomato in contrabbasso, quindi è stata una soddisfazione ulteriore. Ripeto, insegno basso elettrico, materia principale è jazz, quindi insomma, anche se insegno anche molta tecnica, insegno principalmente lo strumento, poi si passa anche al jazz se ne hanno la voglia e le capacità, insomma. Qual è l'input principale che cerchi di inculcare nei ragazzi, a parte lo strumento, parlando proprio di musica, parlando di jazz, ma parlando di musica in generale? Ma io cerco sempre di trasmettere a parte, sai, la passione, che però a volte può essere insufficiente secondo me. Probabilmente cerco di inculcare la coerenza, cioè il desiderio di suonare quello che si è e quello che si sente, quindi diciamo quasi di sentire le note che si stanno per suonare, sentirle, di suonare in anticipo, in poche parole. Quindi sto cercando di trovare un metodo che si basa molto anche sull'orecchio, sullo sviluppo dell'orecchio relativo e sul canto, quindi insomma vado un po' a volte fuori dagli schemi. Ecco, questa è una cosa bellissima che hai detto. Io pure ne parlo spesso incontrando anche i musicisti qui per il soundcheck su Radio 24, la cantabilità della musica anche quando suoni uno strumento, quanto è importante? Beh, io penso che sia fondamentale. Del resto, infatti, ci sono tutti i più grandi bassisti le cui linee appunto si possono cantare, ecco, da Ray Brown a Paul Chambers a Jacopo Astorius a Michel Giosello a Sting a Paul McCartney. Quindi, per quanto sia uno strumento, il basso elettrico o comunque il contrabbasso, uno strumento ritmico portante e importantissimo per la ritmica, è anche uno strumento melodico. Negli ultimi anni, proprio con il basso elettrico, sono venuti fuori dei campioni. Tu rappresenti, come dire, non voglio dire il non plus ultra, però in questo momento sei quotato in tutto il mondo come solista sul tuo strumento. Quindi sei riuscito, prendendo spunto dal lavoro fatto da Jacopo Astorius, Stanley Clarke, Marcus Miller, tutti questi grandi bassisti che poi hai conosciuto, a parte Pastorius, ma con Marcus Miller ci sono anche dei duetti che hai fatto su YouTube, sei riuscito a metterci qualcosa di tuo, qualcosa di personale, e questa è una grande dote. Grazie, vabbè, ripeto, io parto dal jazz, quindi ho sempre cercato di suonare, ripeto, tornando al discorso precedente, con la coerenza, cioè il jazz è la mia passione, insomma la mia scuola, quindi io cerco di suonare jazz sul basso elettrico. Ma ti diverti a suonare tutto, allora ascoltiamo che cosa hai fatto alcuni anni fa in questa pubblicazione intitolata Free from the Ghetto per la Go Jazz di Ben Sidran, qui con Julian Oliver Mazzariello al pianoforte, il bravissimo Stéphane Houchard, batterista francese pirotecnico e all'avanguardia. Dario De Ida al soundcheck di Radio 24. We'll be right back. il sound di Dario De Ida con il suo trio da un album di diversi anni fa per la Go Jazz di Ben Sidran, Free from the Ghetto, Stefano Usciarda alla batteria, Julian Oliver Mazzariello al pianoforte. Siamo all'Alexanderplatz di Roma proprio per incontrare uno dei più grandi musicisti italiani nel mondo. Questo era Give Me Your Hands, un brano scritto a quattro mani insieme a Dario De Ida, pubblicato dalla Columbia Records nell'album New Joy, e io non posso che ringraziarti per avermi regalato questa bellissima performance in studio, ormai realizzata alcuni anni fa. Qui squillano i telefoni nell'ufficio dell'Alexanderplatz, ma noi andiamo avanti da musicisti. Dario De Ida è dei nostri. Allora, tu arrivi da Salerno, diciamo, una città che ha alcune similitudini con New Orleans. Quali sono? Beh, come hai sempre detto tu, i frutti di mare, insomma, il mangiar pesce buono e spesso, insomma, dai. Poi per il resto, vabbè, a Salerno c'è stato il famoso sbarco degli americani, per cui questi americani, insomma, quanto racconta mio padre, dispensavano questi V-disc, questi 78 giri, e quindi, insomma, il jazz è stato un po' di casa, ecco, a Salerno dagli anni, dal dopoguerra in poi, ecco. Ecco, la tua famiglia è una famiglia di musicisti strepitosi. Il tuo papà purtroppo non c'è più, ma è stato un eccellente pianista, e con i tuoi fratelli Alfonso De Ida, meraviglioso arrangiatore, compositore, pluristrumentista, tuo fratello Sandro, sassofonista di prima fascia, insomma, siete stati svezzati al suono del jazz e del pianoforte. Che ricordi hai di quando eravate ragazzi e dovevate in qualche modo aprire il pianoforte che papà chiudeva a chiave? Certo, no, vabbè, perché nostro padre era effettivamente, sembra una leggenda, però in realtà è così, era molto geloso delle sue cose e quindi anche dei suoi strumenti, che conservava in maniera assolutamente perfetta. Per cui, insomma, aveva questo pianoforte a coda comprato, insomma, con i soldi della pensione, ecco, per cui lo teneva chiuso a chiave. Però noi trovavamo un modo, non tanto di scardinare la... Perché quello, c'è il DNA salernitano che non mente, veniva fuori. Ah, certo. Insomma, riuscivamo a scardinare più che altro la chiave, la serratura della porta della stanza. Ecco, quella lì noi creiamo dei grimaldelli come si chiamano quelle dei capelli? Le forcine. Riuscivamo a creare dei grimaldelli e aprivamo questa porta del salotto. Lui lo chiamava salotto, ma in realtà ormai era una stanza di strumenti e basta. E quindi c'era uno dei fratelli che faceva da vedetta sul balcone, perché come vedeva papà che stava tornando, voi chiudevate tutto e tornavate in cameretta vostra. E quindi siete cresciuti suonando il jazz, suonando con vostro padre, e oggi siete tutte e tre dei musicisti affermati. Ma perché, io ti posso fare una domanda, perché tu non ti sei trasferito a New York, a Parigi? Hai preferito comunque continuare a fare la tua attività, la tua vita, per quanto tu abbia una famiglia adesso qui in Italia, con tutte le richieste che hai avuto da musicisti strepitosi, neanche li nomino. Ma guarda, sono tanti i motivi, principalmente credo che ci voglia anche una sorta di un po' di coraggio, di reale desiderio di scappare da qui. Io qui, tutto sommato, nonostante tutti i problemi di questo paese, eccetera, tutto sommato il posto dove sono nato, il mio paese, la mia lingua, i miei frutti di mare, soprattutto quelli, direi, anzi. Sì, soprattutto i frutti di mare, la mozzarella di bufala, e quindi sei rimasto in Italia. Hai fatto bene, siamo tutti felici. Allora arriva Herbie Hancock con la bassista Michelle qui al Soundcheck di Radio 24. Mm. emotionally satisfying kiss. Garden of Eden, spiritual bliss, forgiveness. Offerings of sunflowers, Marvin Gaye, black butterflies. Siamo all'Alexanderplatz di Roma con il maestro Dario De Ida, stiamo parlando di musica, parliamo di bassi elettrici, di contrabbassi, uno strumento formidabile e importantissimo. Quali sono stati i musicisti di riferimento importanti per la tua carriera, Dario? Ovviamente la lista è troppo lunga per farla, però insomma... Ma quali sono quelli che consigli ai tuoi allievi da ascoltare? Io consiglio sempre Ray Brown, Paul Chambers, cioè consiglio il contrabbasso, perché comunque non si può fare a meno di non conoscerlo, ecco. Per cui parto da quelli, poi vado a finire un po' nei bassisti elettrici storici, da James Jamerson, Willie Wicks, per esempio, che era una sorta di suo alter ego per la Motown, e poi insomma in genere chiaramente si arriva a Pastorius, i vari Stanley Clark, io un po' di meno lo conosco Stanley Clark, devo essere sincero, però poi Marcus Miller, Victor Bailey, eccetera. Che cosa significa avere il senso del groove? Ma per me è una sorta di quasi di religione, quasi di preghiera, per cui insomma cerco di considerare quella cosa come un tappeto, un qualcosa su cui gli altri strumentisti possono cantare, improvvisare o... E ovviamente quella cosa deve farti muovere, cioè deve creare quel movimento sotto che permetterà a chi c'è avanti di prendersi il proprio spazio, cioè quindi di non avere affanni, di non avere preoccupazioni, ecco. Per un musicista contemporaneo è importante avere sia il senso dello swing che il senso del groove. Adesso sarebbe troppo complesso e anche troppo lungo descrivere alla perfezione questi due atteggiamenti nei confronti del ritmo e della musica, ma un esempio sul groove lo possiamo dare con il bassista Michael League, questo bassista giovanissimo, leader di una strepitosa band della quale abbiamo già parlato qui al Soundcheck di Radio 24, Snarky Puppy in Family Dinner, questo concerto live in teatro con tanto di pubblico sul palco insieme ai musicisti, e qui ospitano la voce bellissima di Leila Hathaway in Something. Saluti dopo Snarky Puppy e Leila Hathaway al Soundcheck di Radio 24, grazie al maestro Dario De Ida per essere stato con noi, spero di rivederti presto, di tornare a ascoltarti in concerto e di continuare a fare marachelle insieme, Dario. Sì, lo spero anch'io questo di cuore, presto, che possa spesso presto riaccadere. Allora, voglio chiudere l'appuntamento facendo ascoltare questo blues che tu hai scritto, suonato in duo, contrabbasso, qui sì, al contrabbasso, e Julian Oliver Mazzariello al pianoforte. Il brano si intitola Mr. Brown's Brownies, praticamente la torta di cioccolata di Ray Brown. Che cosa ricordi di questa registrazione? Ma sono tanti ricordi, per cui in particolare, ma proprio di questo brano dici tu, di questo brano ricordo che alla fine battemmo tutti quanti le mani insieme per cercare di creare una sorta di Charleston in levare e dare ancora un po' più di swing al brano, e ci siamo divertiti molto in quell'occasione, infatti si sentono delle urla, si sentiranno insomma adesso che ascolteranno. Grazie a Dario De Ida, questo è il Soundcheck di Radio 24, buon pomeriggio a tutti e buona musica. Soundcheck. Il suono della musica.